La carica è mia, la poltrona è mia, la storia è già mia, il futuro lo sia, la tua vita è mia, sono mafia e CIA, dalla retrovia, curo la regia, sempre in agonia, ma con allegria, perché l'alchimia mi ridà la via. Sono la mummia, la massoneria, tutta la polizia, la pedagogia, senza alcuna poesia, poi la topografia, e la tipografia, e la telefonia, ogni cosa è mia, con la necromanzia, porto via l'utopia, la tecnologia mi ridà la via. Sono la mummia, ogni traversia è una diceria, la supremazia è sempre solo mia, son la vecchia spia che con strategia è sempre in sintonia, con la ganga mia che vuol che ci sia, la senocrazia, la necrofilia mi ridà la via. Sono la mummia che la crisi ria, senza fine fia, la tachicardia, porta economia, tu vai in anemia, ma io in euforia, la tossicomania, inghiotta gente pia, ne fa tappezzeria, per la mia tirannia, terrore e apatia mi ridanno la via. Sono la mummia, cocainomania e demagogia, con la burocrazia freno la fantasia, con diplomazia induco all'apatia, nutro con la bugia la mia gran bulimia, sembra bricconeria ma è bracconeria, questa è la chirurgia che mi ridà la via. Sono la mummia, a volte penso di lasciare spazio agli altri, a giovani intelligenti o comunque a gente a posto, ma quando ero volenteroso mi hanno frenato, e allora ora che posso, perché dovrei frenarmi io? Viva la xenofobia e anche l'omofobia, chiunque tu sia, temi chi che sia, viva la borghesia e la carineria e la cialtroneria, viva l'ecofobia, perché ogni cosa sia sempre mia mia mia, è la tua miopia che mi ridà la via. Avanza la mummia.